«Dammi la lampada, presto!» gli ordinò il mago. Era sua intenzione, non appena ottenuto ciò che gli stava a cuore, far ricadere il ragazzo nel baratro per lasciarvelo morire. «No, prima voglio uscire!» si sospettì Aladino. «Prima la lampada!» «No, prima mi tiri fuori!» A questo punto il mago, arrabbiatissimo, disse una formula magica e l'imboccatura del sotterraneo si richiuse sul povero Aladino, che disperato piangeva dirotto. E mentre piangeva passava inavvertitamente le dita sull'anello, strofinandolo. Sappiamo già che l'anello era magico. Sollecitato a quel modo, esso rivelò subito i suoi poteri. Infatti, in una luce abbagliante, davanti ad Aladino apparve un genio. «Comanda cosa vuoi», disse il genio ad Aladino inchinandosi, «ed io ti accontenterò». «Riportami subito a casa», fu la richiesta. In men che non si dica, il ragazzo si ritrovò dalla madre, le mostrò le pietre preziose e la lampada che aveva con sé. La donna trasalì, comprendendo la straordinarietà di quanto vedeva. Nervosamente si mise a pulire la lampada, che essendo magica era la casa di un genio ancora più potente di quello dell'anello. Richiamato da quel gesto, il nuovo genio subito le comparve davanti. «Sono al tuo servizio», si inchinò. «Ordina ed io ti esaudirò». Fino ad allora, nella povera casa di Aladino si era sofferta la fame, perciò ella chiese una tavola imbandita con gustose vivande e buon vino. Immediatamente la tavola fu apparecchiata, una tavola principesca che ritornò tutti i giorni, due volte al giorno. Sostenuto dalla buona sorte, Aladino smise di oziare, lavorò, si dette buon nome. La gente giunse persino a lodarlo, a riverirlo. Un giorno Aladino intravide, non visto, la bellissima figlia del re che usciva a passeggio. Non visto, in quanto se ne stava nascosto, perché quando la principessa usciva in pubblico tutti dovevano rinchiudersi in casa e non ardire di alzare gli occhi su di lei, pena la morte. Ma la curiosità aveva indotto il giovane a dare una sbirciatina e subito se ne innamorò. «Madre, voglio sposare la principessa!» «Oh, povero figlio mio, sei impazzito!» trepidò la donna. «Ma è stato più in senno, madre. Ecco qui una ciotola di brillanti. Vai in udienza dal re, che ti riceverà. E tu, offrendogli un dono così strabiliante, gli dirai che glielo mando io e che voglio sposarne la figlia». Tremando di paura per l'ardire, la madre di Aladino si recò dal re e fece ciò che le aveva detto il figlio. Visto l'inestimabile tesoro recatogli in dono, il re si rallegrò. Se regalava simili ricchezze al suo re, quel giovane ben poteva essere lo sposo della principessa. Per celebrare degnamente le nozze, Aladino strofinò la lampada e chiese al genio di costruirgli un palazzo più bello di quello del re. E subito ecco sorgere dal nulla la nuova meravigliosa dimora di Aladino e della sua sposa.